per starmi accanto sempre. Tra le difficoltà, sei forza della mia vita, sei forza della mia vita. Io vivo sempre in te, vivo sempre in te. Te credi sempre in me, te credi sempre in me. Sei luce del mio cammino, sei luce del mio cammino. Sono la voce di mi accanto sempre. Posso amare, posso odiare in questa vita io, ma non posso non amare l'angelo che un Dio mi ha dato in questo sporco mondo. Mamma, stammi accanto, io non ti lascio sola, ti seguo in ogni passo. Vorrei volare con te tra bianche nuvole. Sono la forza tua, te sei la forza mia. Sei il dono più prezioso di quest'aria che respiro. Tenendoti per mano, ti voglio nel mio cammino. Tra le